البلاد طردوا الأجداد. صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو. فلسطين عربية حرة أبية، القدس إلنا يا أحرار. قتلوا الأبطال قتلوا الأطفال. صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو. قالوا لنا سلام آه يا سلام، لا صفقة بدنا ولا استسلام. Buongiorno Palestina. Oggi parleremo con Egidia Beretta, madre di Vittoria Rigoni, che ha dato la sua vita per la causa palestinese. Nei giorni scorsi è stato l'anniversario del barbaro assassinio di Vic, come veniva chiamato Vittorio. Assassinio avvenuto a Gaza nella notte tra il 14 e il 15 aprile del 2011. Vittorio era stato corrispondente per il Manifesto e molti di noi hanno seguito i suoi servizi da Gaza. Chi legge il Manifesto conosce bene la frase che poneva alla fine di ogni suo articolo: «Restiamo umani», ma questo è anche il motto che molti ragazzi portano scritto sulle loro t-shirt, magari senza sapere che era di Vic, ma avendolo ormai acquisito come proprio. Sono giovani che attraverso Vittorio hanno conosciuto e capito come si può dare un senso a utopia, come la sete di giustizia, di pace, di fratellanza e di solidarietà abbiano ancora cittadinanza e che, come diceva lui, la Palestina può anche essere fuori dall'uscio di casa. È vero dunque che quella di Vittorio è una presenza che si ingigantisce di ora in ora, come dice sua madre nella prefazione al suo libro Il viaggio di Vittorio. Così come usiamo le parole di Vittorio quando come associazioni andiamo a parlare di Palestina nelle scuole, cosa che facciamo spesso, e ai ragazzi che ci chiedono quale può essere la soluzione del conflitto, rispondiamo: conoscere è il primo passo verso la soluzione. In questo aprile 2020, nono anno di ricorrenza dalla sua scomparsa, torneremo dunque a parlare di Vic con sua madre, a cui era molto legato e che condivideva i suoi stessi valori umani. Egidia sarà quindi ospite di questa puntata e la incontreremo subito dopo il notiziario della settimana. Notiziario sulla Palestina, terza settimana di aprile. Il 17 aprile è stata la giornata internazionale dei prigionieri politici. I dati sui prigionieri politici palestinesi sono disponibili elencati secondo queste categorie. Una è il numero complessivo dei prigionieri ripartiti in detenuti amministrativi, donne, minori e minori di età inferiore ai 16 anni. Due, i nuovi prigionieri dall'inizio di quest'anno 2020. Tre, i nuovi prigionieri dall'inizio dello stato di emergenza per coronavirus. I dati numerici non li cito ora per brevità, ma li trovate, oltre che nel documento di cui parlerò tra poco, anche nella rassegna stampa di amicizia italo-palestinese, dove c'è indicato anche come aderire alla raccolta di adesioni alla giornata per i prigionieri politici palestinesi. Si tratta di una raccolta di adesioni organizzata da JVP, che è la Jewish Voice for Peace, che è un'organizzazione ebraica per i diritti dei palestinesi. Il giorno 17 scorso la stessa organizzazione, JVP, aveva anche organizzato un raduno internazionale sui prigionieri palestinesi utilizzando Zoom. La pandemia non frena la violenza di Israele, ma semmai offre l'occasione per ulteriori soprusi. Li indica un circostanziato documento dell'OLP, quello che citavo prima. OLP è Organizzazione per la Liberazione della Palestina. Questo in occasione della giornata dei prigionieri politici. Il documento è stato tradotto e diffuso da Sopace Palestina e ne traggo solo alcune citazioni. Il 3 aprile la polizia israeliana, usando cani poliziotto, arresta il ministro palestinese degli affari di Gerusalemme, Fadi al-Hidmi, dopo aver distrutto le porte esterne e interne della sua casa e costringendolo ad indossare una mascherina usata e macchiata di sangue. Il 31 marzo nel villaggio di Surbaer, vicino a Gerusalemme, vengono arrestati tre palestinesi e viene confiscati 300 pacchi di cibo che avrebbero dovuto essere distribuiti alle famiglie bisognose. Ma questi sono solamente alcuni dei molti fatti e testimonianze che vengono elencati dal documento che ho detto. Il documento indica anche gli ostacoli che vengono posti alla lotta al virus e anche qui ne cito solamente alcuni. Il 26 marzo le forze di occupazione arrestano 8 volontari palestinesi per il fatto che stanno disinfettando strade in vari quartieri di Gerusalemme. Per lo stesso motivo, il 23 marzo avevano arrestato altri 4 volontari, sempre a Gerusalemme, alla Porta del Leone della Città Vecchia, confiscando anche le loro attrezzature di sterilizzazione. Il 24 marzo, ad altri volontari nella città vecchia di Hebron viene impedito di svolgere la stessa attività di disinfezione sotto la minaccia delle armi. Il documento dell'OLP denuncia la condizione delle carceri dove Israele ha scelto di applicare le direttive internazionali contro la pandemia per i carcerati solo a beneficio dei suoi prigionieri criminali, non a beneficio dei politici palestinesi o donne con bambini palestinesi. Invece di prendere misure immediate per liberare i più vulnerabili o almeno adottare misure per frenare la diffusione del virus, il potere occupante ha sospeso tutte le visite ai familiari, ai prigionieri palestinesi e qualunque contatto diretto con i loro avvocati. È stata interrotta la fornitura di 140 articoli essenziali, tra cui cibo, prodotti per la pulizia e strumenti di sterilizzazione, mentre sono stati conservati negli spazi delle carceri solo i prodotti più costosi. Critico è il sovraffollamento. La direzione delle carceri non sta nemmeno applicando le decisioni dell'alta corte israeliana per quanto riguarda la dimensione degli spazi personali dei prigionieri. Attualmente lo spazio è di meno di 3 metri quadri per detenuto, compreso lo spazio dei bagni. Si hanno situazioni di 10 detenuti in spazi di 20 metri quadri, mentre dovrebbe essere invece, secondo una sentenza dell'alta corte, lo spazio dovrebbe essere di 6 metri quadri per ciascun prigioniero. Ma per rendersi conto di che cosa è un carcere israeliano, in particolare un carcere femminile, va segnalato anche un film. È il film 3.000 notti di Mai Masri, donna regista palestinese, consigliabile, durata un'ora, ottimo film. Ancora sul coronavirus, Israele a Gerusalemme Est chiude il laboratorio palestinese e sbaglia le diagnosi nel laboratorio israeliano. Viene fatta un'irruzione da parte della polizia in una clinica palestinese di Silvan, quartiere palestinese di Gerusalemme, dove vengono effettuati i test per coronavirus. Gli operatori vengono arrestati perché i loro kit sono stati forniti dall'autorità palestinese. Questo è il motivo. È incredibile. Viene denunciata la cosa da Assopace Palestina e tratta da un articolo di Haaretz, giornale israeliano. Israele vieta qualunque attività dell'autorità palestinese a Gerusalemme, questo è il motivo. E il mese scorso, come si citava nel documento OLP in precedenza, ha già impedito a lavoratori dell'autorità palestinese di sanificare gli spazi pubblici della capitale. Intanto, in un laboratorio israeliano, stop invece agli accertamenti a seguito di diagnosi sbagliate. Cioè, il 17 aprile è successo che decine di anziani sono risultati erroneamente positivi e sono stati spostati in reparti riservati agli infettati da coronavirus e di conseguenza effettivamente esposti ai rischi di infezione. Il fatto è successo al Weizmann Institute of Science, situato tra Gerusalemme e Tel Aviv, dove una cinquantina di ricoverati hanno ricevuto diagnosi sbagliate. Anche questo lo riporta Haaretz. Sale il contagio nelle città arabe di Israele, trascurate per settimane. Michele Giorgio da Gerusalemme in un articolo sul Manifesto del 16 aprile. Mentre si comincia, cioè, a parlare di fase 2 nel resto di Israele, è sempre fase 1 nei quartieri di Gerusalemme e nelle cittadine abitate da ebrei ultraortodossi, dove la percentuale dei contagi è alta è un fatto di cui abbiamo già parlato la settimana scorsa. Però ora emergono anche insidiosi focolai di infezione in diverse cittadine arabe in Galilea, cioè in Israele. Gli arabi israeliani, che sono il 20% della popolazione di Israele, rappresentano però il 10% di tutti gli israeliani sottoposti a tampone. Il rischio è aumentato negli ultimi giorni, in particolare per i 150.000 palestinesi di Gerusalemme che si trovano dall'altra parte del muro. Cioè, si tratta degli abitanti di campi profughi e di altre arabe. Che sono tutti questi sono residenti ufficiali di Gerusalemme, pagano le tasse. Tuttavia, da anni per le autorità israeliane quei palestinesi sono fuori, cioè esclusi da Gerusalemme, perché è stato fatto un muro tra loro e il resto della città. Qualche tempo fa si è addirittura parlato di piani per cederli amministrativamente all'autorità nazionale di Abu Mazen, cioè in modo da ridurre il numero di palestinesi di Gerusalemme. Il figlio di Netanyahu aiuta il padre. Vediamo come. C'è stata a Tel Aviv una manifestazione di protesta giovedì 16, con oltre 2.000 persone contro Netanyahu e le sue manovre per evitare il processo per corruzione che dovrebbe iniziare a giorni. Yair Netanyahu, figlio 28enne del primo ministro e che ambisce a entrare in politica, in un messaggio ha augurato che tra i futuri deceduti per il coronavirus ci siano solo anziani che simpatizzano per i partiti di sinistra. È successo ovviamente un pandemonio. Il Libano ricorda il massacro israeliano di Cana del 1996. 24 anni fa fu un bombardamento contro i civili libanesi e le truppe dell'ONU. Morirono 106 civili e altri 116 restarono feriti. Avevano cercato rifugio nella sede della missione ONU e furono bombardati dall'artiglieria israeliana. Da ultimo un articolo di Mikko Peled sui rapporti interni al mondo ebraico e in particolare sugli ebrei detti ultraortodossi. Mikko Peled è figlio di un generale israeliano e sostiene i diritti dei palestinesi. Il suo articolo fa capire perché avrebbe potuto esserci una convergenza tra Lista Araba Unita e partiti religiosi in un'eventuale, e ormai tramontata, devo dire, coalizione a sostegno di Gantz. E questo, quello dei rapporti interni al mondo ebraico, un tema su cui torneremo ancora e su cui possiamo annunciare fin da ora altri articoli per la prossima settimana, in cui parleremo anche della pandemia nei territori occupati, di cui abbiamo parlato poco, in questa edizione. Prima di concludere, vogliamo ricordare una persona a noi cara, strappataci in questi giorni dal coronavirus all'età di 71 anni. È Luis Sepúlveda, scrittore cileno, sostenitore di Allende, 24enne al tempo del golpe in Cile, torturato allora dai militari ed esule. A lui e alle sue opere il nostro riconoscimento. E con questo concludiamo il notiziario. E ora un breve intervallo musicale con Cheb Hazmi, uno dei più grandi interpreti della musica Rai, in Albaida Mon Amour. Albaida Mon Amour. البيضة مون امور البيضة مون امور يا انا نبغيها بلا سحور ويا سمحي لي يا الزرقاء سمحي لي يا الزرقاء سمحي لي يا الزرقاء ومعك ما لقيت فايدة ويا صار قاعد وتيه من ديرهاش حبيبتي وياه واللي دار الزرقة في دي العام يا دار بروب لي مياه يا زرقة عدوتي من ديرهاش حبيبتي وياه واللي دار الزرقة في دي العام يا دار بروب لي مياه البيضة مون أمور البيضة مون أمور والبيضة مون أمور يا ماشي بس حلو يا سمحي لي يا الزرقاء سمحي لي يا الزرقاء سمحي لي يا الزرقاء ومعك ما لقيت فايدة ويا كل يوم سكرانة ونندف الخطوة الويان السبابي العديان جرحوا قلبي بالكلام ويان كل يوم سكران نندف الخطوة الويان السبابي العديان وجرحوا قلبي بالكلام ويان البيضة مون أمور البيضة مون أمور والبيضة مون أمور نديها بلا سحور ويا سمحي لي يا الزرقاء سمحي لي يا الزرقاء وسمحي لي يا الزرقاء ومعك ما بقيت فايده ويا Riprendiamo Buongiorno Palestina parlando con Egidia Beretta, madre di Vittorio Arrigoni, di cui nei giorni scorsi è ricorso il nono anniversario della uccisione a Gaza, assediata da Israele. Sono passati 9 anni dall'uccisione di Vic e non solo la memoria, ma anche l'interesse per la sua figura è assai viva. E sua madre, la signora Egidia, che ringraziamo per questo incontro telefonico e con cui parliamo oggi, la signora viene spesso invitata a parlarne. A lei chiediamo, signora Egidia, quali sono le occasioni e i luoghi per parlare di Vic e qual è l'interesse che viene riscontrato? Beh, posso dire che in questi 9 anni dall'uccisione di Vittorio io non mi sono mai fermata, ma perché sono invitata un po' ovunque, sia nelle scuole, sia da associazioni, da biblioteche, da gruppi, che così vogliono sentire proprio dalla voce della mamma chi è stato Vittorio, come è diventato il Vittorio della Palestina. Ecco, gli incontri nelle scuole sono quelli per me più, direi quasi più difficili, perché mi rispecchio guardando i ragazzi, mi rispecchio nei loro occhi e mi pare di rivedere mio figlio alla loro età. Ecco, lei mi parla di scuole, ecco, a quali scuole, qual è il tipo di scuole da cui va più spesso? Ma sono licei, sono istituti tecnici, ma sono stata invitata anche in alcune scuole medie e devo dire che gli incontri sono molto belli e lasciano un segno, in particolare quando i giovani sono già stati preparati prima dagli insegnanti, quindi non vado così nell'ignoto, conoscono già in parte Vittorio e quindi l'interesse è ancora reso più vivo da questo. E anche le domande che mi vengono fatte, soprattutto, come dicevo, se c'è stata prima una preparazione, sono domande molto, molto belle, anche a volte dolorose per me, però non mi sottraggo mai alla risposta. Ecco, io mi chiedo certe volte qual è il lascito che rimane presso questi ragazzi. Perché alcune cose di Vittorio sono ormai presenti in una serie di eventi. Le dico una banale: il motto Restiamo umani è ormai presente su moltissime t-shirt, per dire. Beh sì, ecco, io spererei che chi lo scrive, chi lo pronuncia sappia da dove proviene questo motto, che sostanzialmente è nato come un grido che Vittorio lanciava dalla Gaza assediata per chiedere a lui, a se stesso innanzitutto, di riuscire a restare umano in situazioni dove l'umanità era perduta. E a noi chiede di riflettere sulla vera natura dell'uomo, come lui dice, no? Quando afferma che di non credere nei confini, nelle barriere, nelle bandiere, crede invece che apparteniamo tutti, indipendentemente dalle latitudini e dalle longitudini, a una stessa famiglia che è la famiglia umana. Questo è un po', se possiamo parlare di lascito, anche se non mi piace l'espressione. È un po' quello che ci ha lasciato Vittorio. Ecco, questo il Restiamo umani è un suo motto che è diventato un po' motto ora di tutti, perché lo troviamo anche all'inizio o alla conclusione di documenti, di lettere, di messaggi. Ma fu coniato da Vittorio prima ancora che lui vedesse la cosa più orribile che è successa a Gaza, cioè le stragi, i bombardamenti del 1900, del 2014. Beh, Vittorio era a Gaza nel 2008, quando pochi giorni dopo Natale Israele iniziò a bombardare la striscia. E così con queste due parole lui concludeva tutti gli articoli che trasmetteva al manifesto. E, sì, probabilmente Vittorio l'ha già pronunciato anche prima, ma è diventato un po' il suo mantra proprio a partire da quella tragica occasione. Ecco, lui come si è formato, Vittorio? Che tipo di ragazzo è stato? Che tipo di adolescente è stato? Ma è stato un adolescente come tutti gli altri, però già da bambino Vittorio aveva nel cuore quello che io penso sarebbe diventato poi. Perché già quando era piccolo, quando frequentava le elementari, lui scrisse quelle parole che sono un po' diventate la traccia della sua vita. Quando a 11 anni, parlando della pace, dice che per volere la pace mi devo guardare attorno per vedere se tutti hanno il necessario, la gioia di vivere, la libertà di parlare, di lavorare, di pregare, come me, che ho tutte queste cose e vivo bene ogni giorno. Ecco, sono parole da bambino, ma riflettendoci mi viene da dire che sono state un po' l'impronta che poi ha avuto tutta la sua vita. E poi da ragazzo, da adolescente, non ha fatto nulla di particolare per distinguersi. Sicuramente ha sempre coltivato dentro di sé, questi ideali, chiamiamoli così, che poi ha cercato di perseguire, con tutte le sue forze, con tutta la sua volontà e sapendo anche che avrebbe potuto, che la sua vita avrebbe potuto anche essere breve. La sua vita in effetti è stata breve, perché lui è morto a 36 anni e lui si è recato in Palestina subito a Gaza oppure in altri posti? No, prima, beh, bisognerebbe fare, è molto lungo raccontare tutti i campi di lavoro internazionali che ha fatto, un po' in giro per il mondo, ma prima di arrivare a Gaza lui conobbe quella che io chiamo la sua prima Palestina, quindi la Cisgiordania, dove è stato 3 anni, sempre durante le estati, è stato lì che ha cominciato Vittorio ad amare e a sentirsi fratello del popolo palestinese, perché in Ecco, lui fondo quello che vogliono loro è quello che voleva lui, la libertà, la giustizia, la pace. E poi nel 2008 è arrivato a Gaza dopo che Israele gli aveva impedito di rientrare in Cisgiordania. Ecco, e lui a questa scelta palestinese, com'è arrivato? È arrivato da giovane, è arrivato da una. Che tipo di occupazione aveva avuto lui in Italia e nella sua prima, diciamo, nella sua prima gioventù? Ma Vittorio lavorava con il suo papà, quindi non è che facesse parte di associazioni o altro qui in Italia. Il suo amore per la Palestina è arrivato, lui dice, sono andato in Palestina quando mi sono sentito pronto, quando la Palestina mi ha chiamato. Io penso che tutte le esperienze che ha fatto Vittorio dai 20 anni in avanti, inconsciamente, lo stavano preparando a quello che sarebbe stato il suo impegno maggiore, il suo viaggio definitivo, quello appunto, l'incontro con il popolo palestinese e con la terra di Palestina. E lui dalla sua permanenza a Gaza ritornava in Italia ogni tanto oppure l'avete in qualche maniera perduto, diciamo? Beh, lui è arrivato a Gaza il 23 agosto 2008 con queste due barche coraggiose che hanno rotto un assedio che durava da 40 anni, un assedio via mare. E lì è rimasto sino all'autunno quando è stato ancora una volta incarcerato, rapito e incarcerato dalla Marina israeliana e poi ha voluto ritornarci verso la fine di dicembre, poi piombo fuso. È ritornato in Italia nel settembre 2009 e ha cominciato a girare così l'Italia per parlare, per raccontare di Gaza, per raccontare attraverso i suoi scritti, che poi sono diventati un libro, Gaza Restiamo Umani, ciò che era veramente accaduto nella striscia. È ripartito poi alla fine del 2009 e poi noi non l'abbiamo più visto. Ecco, devo dire che l'interesse per Vic è ancora un interesse molto, molto vivo. È uscito recentemente un altro libro su Vic, Sì, proprio in questi giorni. è uscito alla fine dello scorso anno, è di Anna Maria Selini, una giornalista che fu la prima proprio ad intervistare Vittorio a Gaza nell'aprile del 2009 e lei ha voluto scrivere questo libro anch'essa per frugare proprio nella vita, nei pensieri di Vittorio, attingendo a fonti certe e quindi pubblicando anche pagine di Vittorio che non erano mai state rese note. E il libro si intitola Vittorio Arrigoni, ritratto di un utopista. Ed è un libro molto bello perché ci fa conoscere ancora di più Vittorio e io penso che ce lo faccia amare ancora di più, amare ed apprezzare per tutto quello che lui è stato nella sua vita. Ecco, riprendo un termine che a lei è piaciuto poco, cioè quello del lascito. Devo chiederle, nelle scuole, i ragazzi più maturi, che riscontro danno, che riscontro di interesse, che cosa trovano nel racconto su Vittorio? Fanno domande, ascoltano con interesse. Reagiscono e chiedono di Vittorio anche questioni, che ne so, di appartenenza politica o altro. Ascoltano sempre molto attentamente, tanto è vero che poi le insegnanti me lo dicono, che è la prima volta che i ragazzi stanno così in silenzio e così attenti senza perdere una parola di ciò che dico. Io mi aiuto anche in molto proiettando dei video. C'è questo video, questo documentario che Al Jazeera realizzò con Vittorio nel 2010. Ecco, io ne faccio ascoltare, ne faccio vedere degli estratti, anche perché desidero molto che i ragazzi lo vedano anche nella sua fisicità, così prorompente e che ascoltino proprio dalle sue parole il suo racconto, i suoi ideali e capiscano la bellezza della vita di Vittorio anche attraverso la gioia, la serenità che esprime quando si racconta. Domande ecco. Non ne arrivano molte, anche perché il video stesso è un bel pugno allo stomaco, quindi i ragazzi rimangono un po' sconcertati. I riscontri a volte li ho dopo, quando ritorno, quando mi scrivono, e ho anche delle testimonianze molto belle che mi fanno gioire. I ragazzi che poi incontrati gli anni passati, che mi dicono che proprio pensando e guardando Vittorio hanno attinto anch'essi la forza per impegnarsi, e chi nel volontariato in Italia, chi nel volontariato all'estero. E quindi penso che il segno che Vittorio abbia lasciato e stia lasciando sia molto profondo. Ecco, era proprio questo che volevo, che forse la domanda non era così esplicito, però era proprio questo che volevo, che mi interessava sapere, cioè il lascito, cioè che cosa rimane nei ragazzi dopo e come poi lo esprimono. C'è un disegno di Latouf con Vittorio che tiene per mano l'Andala, cioè il bambino palestinese creato da un disegnatore palestinese. E questo è popolare, è ora uno dei simboli di Gaza, della Palestina, e c'è in molte delle pubblicazioni che noi facciamo. La figura di Vic è molto ben presente in uno strato ampio di popolazione, quella per intenderci che va alle manifestazioni, ma penetra anche altrove e se ne parla in altri ambienti? Ma sicuramente. In occasione di questo anniversario, non potendosi esserci alcun evento pubblico, con Alessandra, mia figlia, si è pensato di creare questo evento su Facebook, ricordando Vic 2020. Ecco, basterebbe accedervi e leggere tutti i contributi che ci sono per capire che Vittorio è presente ovunque e in tutte le fasce di età, dai giovani ai meno giovani, a chi lo ho conosciuto di persona, a chi invece l'ho conosciuto attraverso i suoi scritti, moltissimi dopo la sua uccisione. E tornando al disegno di Latouf, è molto bella, anche perché oramai si sa che Vittorio aveva molti tatuaggi e uno degli ultimi, forse l'ultimo, che si era fatto fare sull'avambraccio destro era proprio il bimbo, era proprio Andala. E quindi Latouf ha avuto una bellissima ispirazione nel ritrarli, io l'ho qui davanti agli occhi adesso, Vittorio che dà la mano al bimbo e il bimbo e Vittorio che entrambi sollevano il braccio e con le dita mostrano il segno della V, la V. Vittorio o Vittoria o entrambe. Ecco, il Vittorio a Gaza aveva scelto un'attività poi particolarmente rischiosa, mi pare, che è quella di accompagnare i pescatori alla pesca, tenuto conto che ci sono delle forti restrizioni alla pesca e che molto spesso vengono aggrediti. Ma lui aveva un'abitudine o un'esperienza di marinaio? No, assolutamente no. Infatti una cosa curiosa è quando Vittorio mi scrisse dicendomi: ma mamma, noi abbiamo un antenato marinaio. E io gli dissi: ma no Vittorio, sai chi furono i tuoi nonni? Cosa fecero? Ma perché mi fai questa strana domanda? Perché stavano arrivando a Gaza, perché ho il timone in mano e navighiamo e io conduco la barca. No, non avevo esperienze. Ma la scelta di andare con i pescatori, ma è stata una scelta molto semplice. Quando Vittorio arrivò a Gaza, lui decise di mettersi a disposizione, quindi non è andato a dire facciamo questo, facciamo l'altro, no. Qui lo dice chiaramente, ci siamo guardati intorno, abbiamo chiesto quali fossero le necessità, cosa potevamo fare noi. Ed ecco che c'è stata la richiesta dei pescatori di accompagnarli per riuscire almeno ad andare un po' più al largo di quello che imponeva Israele. E così pure la scelta di andare coi contadini a raccogliere ai confini sigillati di Gaza, nei campi al confine, e anche qui sempre documentando. Vittorio è veramente diventato la voce di questo popolo, con la sua parola ma anche con le immagini che lui registrava e che poi trasmetteva con i suoi video che hanno fatto un po' il giro del mondo. Ecco, e lui in tutte queste occasioni si faceva ben riconoscere come internazionale di accompagnamento, perché mi pare che questo dissuada l'aggressività degli israeliani, o mi sbaglio? Beh, era la loro speranza, era anche la speranza dei pescatori e la speranza dei contadini. Quando andavano nei campi avevano sempre la pettorina, e lui lo dice chiaro, che ci conoscono, sanno chi siamo, che siamo volontari, che siamo disarmati. E un'altra cosa, Vittorio, sempre prima di partire per le spedizioni in mare o nei campi, lui avvisava sempre il consolato italiano, ci teneva che si sapesse dove fossero, per qualsiasi evenienza. Però questo essere internazionali non ha risparmiato le pallottole, perché anche Vittorio fu colpito. Ah, perché lui andava sulle barche, andava da solo o andava con altri internazionali? Sì, fin quando rimasero altri internazionali andava, c'erano anche altri, si dividevano sui pescherecci. Ho capito. Ecco, lei ci vuole dire ancora qualche cosa su Vittorio o passiamo alla conclusione musicale? Beh, di Vittorio potrei dirvi che chi lo volesse conoscere ne ha tutte le possibilità, sia attraverso i libri, quello che abbiamo citato, il mio libro, Il viaggio di Vittorio, e c'è anche un bellissimo libro che abbiamo pubblicato come fondazione, Il bambino che non voleva essere un lupo, che narra dei sogni di Vittorio ancora nel grembo della mamma, sogni che poi ha realizzato da grande. E poi appunto c'è anche la fondazione Vicutopia Onlus, e c'è un sito www.fondazionevicutopia.org che è ricchissima di testimonianze, di parole di Vittorio, di musica, di canzoni che gli sono state dedicate. Quindi è Vittorio dà la possibilità di essere conosciuto da chi volesse. Bene, allora sono tutti i mezzi. Benissimo. Allora, la figura di Vic è ben presente a noi e noi la ringraziamo molto per averci concesso questa intervista. Ci ripeta ben bene il nome della fondazione e il sito su cui reperire le informazioni, perché questo è molto importante e vogliamo che i nostri ascoltatori se lo ricordino e possibilmente se lo appuntino. Sì, fondazione vicutopia.org. Benissimo, signora, noi la ringraziamo molto di averci onorato di questa intervista sulla nostra radio, e nel concludere la ringraziamo ancora Egidia Beretta. Grazie. Io vi ringrazio per questa opportunità e aspetterò tempi migliori anche per me. Grazie a lei. Grazie, buongiorno. Buongiorno. Non possiamo salutare Egidia Beretta senza leggere almeno un brano tratto dal suo libro Il viaggio di Vittorio. dal diario di Vic del 16 agosto 2008. Da una telefonata di Michele Giorgio del Manifesto abbiamo mestamente appreso della dipartita di Mahmoud Darwish. Aveva incontrato Mahmoud qualche anno fa al Festival della Letteratura di Mantova. Gli avevo stretto la mano, ringraziandolo per la sua intifada letteraria, per aver utilizzato la penna come un piccolo scalpello, scavato tra le macerie di un campo profughi e saputo riesumare il fiore fossile della bellezza di un popolo antico e fiero, che anche senza passaporti, nella sua poesia era visto, lascia passare per qualsiasi biblioteca sparsa nei più remoti angoli del mondo. Non ho perso tempo, ho tirato su martello e chiodi e dal mio zaino ho estratto due suoi libri, Murales e Memoria contro l'oblio. Li ho piantati a prua della Friga Aza e della Liberty. Saranno la prima cosa che si troveranno di fronte i militari israeliani se cercheranno di arrestare la nostra missione umanitaria. Saranno i versi di Darwish la nostra polena e nessuna impresa sarà mai troppo epica con la sua poetica come esorcismo al terrore della morte violenta. Versi e prose per rimanere umani quando la guerra riduce l'essere umano a una polpiglia di contaminante odio. Restiamo umani. Vittorio Arrigoni, 16 agosto 2008. Ora un breve intervallo musicale con il Beirut Oriental Ensemble. Thank you. Vi diamo ora notizia dell'iniziativa appello per il prossimo 25 aprile, a cui hanno aderito comitati popolari e associazioni come Assofacci Palestina, Comunità Palestinesi in Italia, Giovani Palestinesi in Italia, Società Civile per la Palestina, Rete Romana di Solidarietà, Cultura e Libertà, Amici della Mezzaluna Rossa e tante altre. Il 25 aprile si rievoca la liberazione dell'Italia, ma dobbiamo ricordare che tutti i popoli devono essere liberi oggi, e non solo dal coronavirus, ma dalla povertà, dall'ingiustizia, e anche il popolo palestinese deve essere libero dall'occupazione e dalla colonizzazione israeliana. Quindi il 25 aprile alle ore 15 in Italia, alle ore 16 in Palestina, si uniranno le nostre voci con iniziative di incontro per via telematica convocate per quell'ora e si esporranno ai terrazzi le bandiere della pace, quelle palestinesi, quella italiana, e si suoneranno e si canteranno Bella Ciao e una canzone che si canta sempre in Palestina alle manifestazioni quando si percorre la strada proibita di Shuada Street ad Hebron oppure quando si piantano gli alberi di olivo ad Attuani e anche a Bilin. Questa canzone che vi facciamo ascoltare in parte si chiama My Teen, la mia casa. Ricordiamo che potrete trovare tutte le informazioni relative a questa trasmissione, come citazioni, libri, musica e quant'altro, sul blog di Wombat. E con questo vi salutiamo e vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo, sempre alle ore 18. Inshallah! صفقة شاو صفقة شاو صفقة شاو شاو شاو فلسطين عربية حرة غبية القدس إلنا يا أحرار قتلوا الأبطال قتلوا الأطفال صفقة شاو صفقة شاو صفقة شاو شاو شاو قالوا يا سلام آه يا سلام لا صفقة بدنا ولا استسلام قاومنا دفعنا صفقة جاو صفقة جاو جاو جاو قالوا القانون دولي قانون العدل شفنا ولا سلام لا لا لا لا لا لا لا صفقة جاو صفقة جاو صفقة جاو جاو جاو لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا محتل اطلع صفقة جاو صفقة جاو صفقة جاو جاو جاو فلسطين عربية